l'aria è come un barbone che viene spuntonato da destra a sinistra da vari venti di superpotenza. Nell'era telematica la catena è statica, il montaggio è lento per via del pedaggio dell'economia viatica, un apparato a basso raggio ma è solamente un assaggio del grande male fetale. Vedo lo stivale in anemia sotto assedio, riposto nel tedio senza rimedio, sotto sforzo anzi esposto da venti genchi occidentali, dinanzi al volto parassiti orientali, travolto da molteplici dietetici interessi, da scafisti da porto a quanto fetti di malmessi politici, a riviste sprovvisti di un apporto concreto, allora quindi completo siamo mai stato di zaristi in sfruttamento, la dignità in congelo, non mento, ripiego la verità è un concetto per cui sacrifico l'ego, il tetto del diniego è panico con viltà. Mi sento dentro un turbine scaraventato in ogni dove, dentro me piove i monzoni, ignari i modi con cui modifichi relazioni, spingendo gli altri ignoti nella fossa dei leoni. È inutile che scacci tu, con forza mi scacci, o stivale pieno di stracci, bulli che rincitulliscono con smidoni, padri infami che appena nati sintonizzano la pena dello scena, selva nera nel popolo monotono, mentre la fiera iena al pon subdolo patibolo, un ridicolo crogiolo di chi della captazio benevolenza si fa portavoce. Voce porto in croce, un'enelenza di minoste, impossibile variazio, in quanto ogni casta è inaccessibile. La mia voce, la mia voce sommersa nell'arsura della sciagura, ignuda, poi dispersa nel luogo delle bocche di Giuda. Mi sento dentro un turbine scaraventato in ogni dove, dentro me piove. Dentro me piove ovunque.